9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 8 luglio e prima di entrare nel merito della puntata di oggi, che è dedicata a uno degli aspetti della manovra finanziaria più inequivocabilmente sbagliati e da correggere, la norma che limita il tetto agli ammortamenti fiscali per le imprese all'1%, che colpisce durissimamente innanzitutto tutte le imprese di costruzione, concessionari autostradali, cioè tutte quelle imprese private alle quali stiamo chiedendo in questi anni di sopperire al fatto che lo Stato ha pochi soldi per investire. Io ricordo a tutti che la spesa per investimenti pubblici è in calo da anni ed sarà in ulteriore calo nei prossimi 3 anni. La spesa per investimenti purtroppo cala mentre quella corrente continua a crescere, è una delle storture dell'andamento della finanza pubblica italiana. In questo quadro noi chiediamo di più alle imprese private, cioè chiediamo che mettano capitali privati per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, delle strade, delle autostrade, delle ferrovie, nei cosiddetti PPP, si chiamano così in termini tecnici, cioè i partenariati pubblici privati, i project financing, che in Italia dovrebbero costituire una specie di autostrada per sopperire alla mancanza di risorse pubbliche. Eppure nella manovra c'è una norma che praticamente disincentiva esattamente questa finalità, scoraggia e abbatte l'efficienza contabile e patrimoniale di tutte queste imprese private, quindi un punto veramente incomprensibile. Io personalmente non riesco a capire se si tratti di un errore tecnico, una svista imperdonabile, oppure di una deliberata intenzione di autoaffossamento dell'economia italiana. Lo vedremo, daremo la parola alle imprese che su questo giustamente stanno durissimamente protestando. Io ieri pomeriggio partecipavo a un dibattito con il ministro Sacconi, rispondendo a Luisa Todini, presidente della Todini Costruzioni e che è presidente anche della Federazione Europea delle Imprese di Costruzioni, ha fatto capire che è uno dei tanti punti su cui in Parlamento ci si riserva di tornare sopra alla questione. Ma prima di questo consentitemi di impiegare 2 o 3 minuti su una considerazione di ordine generale per quello che sta avvenendo nel governo e per l'impatto che questo ha sulla credibilità del governo stesso e sulla credibilità del nostro paese, visto che non possiamo dimenticarcelo, siamo ai massimi degli spread tra i titoli del debito pubblico italiano decennale e quelli tedeschi, con quasi 230 punti base in più, che significa aumento degli oneri del debito pubblico e che si sommano, come del resto sapevamo e più volte questa radio vi ha annunciato, agli aumenti dei tassi di interesse, ieri l'ennesimi 25 punti base aumentati dalla Banca Centrale Europea, quindi possiamo sapere con certezza che il debito pubblico italiano ci costerà di più e a maggior ragione quindi dovremmo avere un'immagine e una sostanza di rigore da parte del governo. È evidente che i fatti che stanno avvenendo da parte del governo, all'interno del governo, minano in maniera ulteriore, come se ce ne fosse stato bisogno, dopo quello che è testimoniato nei sondaggi da un anno e mezzo a questa parte, la credibilità, la coesione, l'efficacia del governo stesso, e che questo si deve a delle dinamiche interne uscite totalmente oramai dal controllo. Mi riferisco ovviamente alla vicenda della conferenza stampa e di illustrazione della manovra con le parole pronunciate da componenti del governo l'uno nei confronti dell'altro, ieri ricompattate con la recita del Consiglio dei Ministri d'abbraccio. Mi riferisco a quello che alla bomba ieri esplosa da parte della Procura di Napoli, dei GIP di Napoli, che hanno chiesto l'arresto dell'onorevole milanese stretto collaboratore del ministro Tremonti, e a tutto ciò che leggete oggi sui giornali in relazione all'ipotesi della magistratura. L'ipotesi della magistratura è che lo più stretto consigliere del ministro dell'economia facesse mercanteggiamento di violazioni di ciò che veniva a sapere per i suoi contatti con la Guardia di Finanza in relazione a indagini, posizioni di imprenditori in inchiesta in corso e in cambio favori, acquisti di favore per sé e per propri cari, e si parla anche di questa casa nella disponibilità dell'onorevole milanese offerta al ministro Tremonti stesso. Il ministro Tremonti ieri ha chiarito da parte sua che non è affatto una casa in cui abitava e ha dichiarato che immediatamente l'ospitalità che aveva accettato è ritirata e quindi ha trovato un'altra sistemazione. Ma quello che più colpisce, al di là di questa vicenda che già offre moltissimi elementi di riflessione, e poi ciò che ne fa lo sfondo e che si legge nelle dichiarazioni rese ai magistrati dallo stesso ministro in ordine a cordate della Guardia di Finanza, dalle quali si capisce che il ministro si attende ulteriori sviluppi di quello che considera un attacco portato a lui, e la descrizione di queste cordate è una descrizione come se all'interno del corpo della Guardia di Finanza vi fosse una parte che fa riferimento a Palazzo Chigi, al Berlusconi, a Letta, e un'altra invece che fa riferimento al ministro, e che da questo scontro, per così dire, derivino poi anche le indagini che arrivano a colpire collaboratori diretti del ministro e a lambire la sua stessa persona. È evidente che quando un governo arriva a incidenti così incredibili come quelli della conferenza stampa, e quando atti giudiziari e le stesse dichiarazioni dei componenti del governo ai magistrati testimoniano un quadro nel quale vertici apicali del governo attribuiscono a lotte all'interno dei corpi dello Stato conseguenze che poi si riverberano sulla stessa permanenza in carica dei componenti del governo, vuol dire che il quadro è quello degli ultimi giorni, è un quadro minato dall'interno, è un quadro che difficilmente può essere identificato agli occhi del cittadino, dei lavoratori, dei contribuenti, come il quadro dal quale ci si può attendere una manovra che arriva all'azzeramento del deficit. Io lo dico con profondo dolore, perché penso che questo sia l'atteggiamento che devono avere tutti coloro che amano il nostro paese e che si rendono conto del fatto che l'azzeramento del deficit è un impegno senza alternative nel quadro internazionale della finanza pubblica, dell'eurocrisi in cui stiamo, per il rischio molto oggettivo. Avete visto che in due giorni Spagna e Portogallo hanno iniziato di nuovo a ballare anche loro, che la lista dei paesi che possano essere coinvolti nella diluizione della soluzione europea del problema greco e degli altri eurodeboli ci veda di nuovo rimessi ben al centro nella lista dei paesi che generano sfiducia. E in tutto questo la politica dovrebbe dare un'immagine di assoluta fermezza nella condivisione di questo obiettivo e di assoluta chiarezza e serietà nell'identificazione delle strade per raggiungerlo. Invece è chiaro che quando già si è molto divisi, come si è divisi tra maggioranza e opposizione, e quando si è ancora più divisi all'interno della maggioranza, e quando si è ancora più divisi all'interno del governo, un obiettivo di questa importanza diventa un obiettivo di cui all'opinione pubblica, a quale non si può chiedere di essere così attenta a ogni minima valutazione delle vicende interne di un governo, gli resta l'impressione che non sia un obiettivo così importante. E tanto più poi a quel punto non capisce perché le misure per il suo concreto raggiungimento siano le misure che in questi giorni l'opinione pubblica ha capito essere le misure fondamentali di questa manovra, cioè misure nelle quali alcune scelte fondamentali, per esempio l'innalzamento dell'età pensionabile a storia anche privato, come si è fatto a storia pubblico, mancano, mentre invece si colpisce, ne abbiamo già parlato, l'aggiornamento al costo della vita di pensioni medie e basse, in cui i costi della politica vengono rinviati, e in cui grandi voci come per esempio le forniture alla sanità in 6 anni raddoppiate del 50% non si possono toccare perché confliggono con le intese già raggiunte con le autonomie fare il federalismo fiscale a perimetro invariato del 2009, e quindi giustamente regioni e comuni dicono adesso non ci chiedete nuovi tagli. Ecco, tutto questo all'opinione pubblica arriva come una manovra in cui una parte preponderante è fatta di nuovi aumenti delle entrate prendendole dalle tasche degli italiani, la riforma fiscale è ulteriormente troppo rinviata e non fa parte quindi della realizzazione di meno pressione fiscale a imprese e lavoro che ci servono per più crescita, e in più, ecco, si arriva poi anche a norme come quelle di cui parliamo oggi. Questa introduzione era per me obbligata, perché è inutile nasconderci che quando un governo autocappotta per credibilità morale, etica e politica tutti i giorni ancor più gravemente come avviene, il quadro da cui partire è inevitabilmente questo, ed è il quadro che oggi dipingono unanimemente tutti i quotidiani italiani, tutti i media italiani. Trovate editoriali dedicati a questo punto su tutti i quotidiani, qualunque sia la loro ispirazione. Trovate su Repubblica un'intervista vista del Premier, nel quale si dice chiaramente che Tremonti è l'unico governo che non fa squadra, che non pensa agli elettori. È un'intervista nella quale implicitamente o esplicitamente il Presidente del Consiglio chiede le dimissioni del Ministro dell'Economia, perché dice che ha mentito e barato sulla norma salva Mediaset. La norma salva Mediaset verrà riproposta in Parlamento. La mia opinione è che il centrodestra si sta suicidando, perché è incapace oramai di intendere e di volere. Dalla guida alle figure più apicali, una prova di totale mancanza di credibilità di questo tipo non è fatta per chiedere alle imprese, al sindacato, ai lavoratori, ai contribuenti, ai pensionati, ai giovani senza lavoro, alle donne senza lavoro, al mezzogiorno colpito, di dare quella sovrappiù di fiducia senza il quale, rassegniamoci, l'azzeramento del deficit al 2014 e l'inversione del peso del debito pubblico sull'economia italiana non ci sarà. Questa è la mia opinione, molti ascoltatori me l'avevano chiesta, ve l'ho detta chiara, e penso che sia ciò che l'informazione deve fare. Ognuno ha punti di vista diversi poi sulla politica del governo, su come si può fare o non si può fare, però fare chiarezza, come il titolo oggi dell'editoriale del Sole 24 Ore diretto da Roberto Napoletano, fare chiarezza è ciò che noi possiamo chiedere. Se la politica non ce la darà, ne pagherà poi il conto, e credo che all'interno del governo, spero almeno per loro, ne siano consapevoli. Vediamo il punto di oggi, quello invece su questa vicenda incredibile del tetto all'1% degli ammortamenti, e tenteremo innanzitutto con i nostri ospiti di spiegarla a chi non ha cognizione tecnica, non sa bene innanzitutto neanche cosa sia un ammortamento, quindi non riesce a immaginare quali possano essere le conseguenze di un tetto di questo tipo. Abbiamo con noi Bruno Dardani, che è il direttore del mensile Caporn, che insieme a me facciamo proprio per tentare di dare una mano ai problemi dell'infrastrutturazione del paese, che saluto. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te. Abbiamo il direttore generale dell'AISCAT, che ieri ha tenuto un'assemblea in cui duramente Palenzona e altri hanno chiesto al governo di cambiare questa norma. Schintu, buongiorno. Buongiorno direttore. E abbiamo il presidente dell'ANCE, Buzzetti. Buongiorno Buzzetti. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Schintu, tentiamo innanzitutto di spiegare questa norma e le sue conseguenze a chi, ripeto, non ha cognizioni tecniche, bilancistiche, fiscali per capire cosa vuol dire? Ma io cercherò di utilizzare, di semplificarla al massimo. Forse i buristi potranno alzeranno il sopracciglio, però credo che per capire bene la questione sia importante spiegarsi in maniera chiara. Allora, partiamo dal presupposto. Una concessionaria di costruzione e gestione autostradale per mestiere costruisce una infrastruttura, la pone a pedaggio, la pone in esercizio a pedaggio, e attraverso quel pedaggio, nell'arco di un piano finanziario che generalmente ha una durata che può andare a seconda chiaramente della redditività del caso, da 20, 30, 40 anni, adesso dipende dai casi, ce ne sono alcune che sono anche più lunghe. Quindi nel fare questa operazione ovviamente si acquista sul mercato dei capitali una provvista finanziaria all'inizio, quindi fa un investimento iniziale che, considerato ad alta intensità di capitali, come si dice nel nostro caso, c'è un grosso investimento iniziale che poi evidentemente nell'arco della vita utile dell'infrastruttura è molto minore, perché si tratta di normale manutenzione salvo casi eccezionali, e quindi in pratica durante questo periodo recupera questi soldi. Ora, nell'ambito del bilancio che la società è tenuta a fare, a maggior ragione poi se è una società quotata in borsa, come capita alle principali italiane e anche a molte altre che ci sono nel giro per l'Europa e per il mondo, pone delle poste all'interno del bilancio che servono a portare in conto proprio l'investimento iniziale. Ora, l'ammortamento del bene, quindi di quello che è il cespite in capo alla società, quindi il bene cosiddetto devolvibile allo Stato, ossia il bene autostrada che verrà restituito gratuitamente allo Stato alla fine della concessione, la parola gratuitamente non deve far sorridere, è ovvio che alla fine, quando è finito il piano finanziario, il bene è gratuito perché è stato pagato, questo è chiaro. Quindi dicevo, alla fine del piano finanziario il bene verrà restituito, durante il portare in conto il costo di questo bene, il costo finanziario di questo bene durante il periodo di concessione, durante il piano finanziario, viene fatto attraverso l'ammortamento. Se dovessimo applicare la norma, se dovremmo applicare la norma che è stata introdotta, noi potremmo utilizzare l'ammortamento, quindi la partita principale dei costi che fanno parte del bilancio, solo l'1% di questo costo iniziale. Il che vuol dire, adesso poi andiamo a brutalizzare ancora una volta, che se avessimo bisogno di ammortizzarla tutta, avremmo bisogno di 100 anni. È chiaro che al di là di quanto può durare la concessione, anzi prima ancora di quanto potrà durare la concessione, quindi al di là di tutti gli artifici contabili o di introito o tariffari che potrebbero essere messi in campo, evidentemente, specialmente pro futuro, quindi per le iniziative in corso o diciamo a venire, e parliamo quindi dell'infrastrutturazione e l'adeguamento della risoluzione del gap infrastrutturale italiano, ci troveremo nella condizione, direi quasi ridicola, per cui dovremo andare a chiedere soldi in banca con un piano finanziario che chiude a 100 anni. È una cosa che evidentemente non ha senso. Schinto, come può essere nata, non le chiedo giudizi politici, ma tecnicamente? Guardi, io come ha detto ieri il dottor Palenzona, credo rappresentando in maniera assolutamente chiara ed inequivoca tutto il settore, noi ci rendiamo perfettamente conto, noi concessionari, che in un momento in cui si chiedono sacrifici a tutti, lei ha fatto un'introduzione che al di là della drammaticità di alcuni passaggi, almeno a mio modo di vedere, ha il bene di aver detto chiaro che poi vengono chiesti sacrifici a tutti. E in questo quadro pensare che a società che hanno dei bilanci diciamo coerenti, dei bilanci non in rosso, dei bilanci positivi, che hanno un'attività finanziaria e commerciale e industriale importante, non chiedere sacrifici a quelle sarebbe folle. E benissimo, sotto questo profilo credo che sia, come dire, credo che quella la base di partenza sia questa. Ho la sensazione che forse ci sia stato un sottovalutare l'impatto di questa operazione sui bilanci, cioè come dire, si è pensato principalmente, almeno quello forse estrapolo un po' troppo, ma leggendo da quello che è la relazione di accompagnamento, si è pensato prima al conto diciamo finale piuttosto che al modo. Forse il tutto è nato dalla fretta, è stata una svista dovuta alla fretta. Noi continuiamo a pensare che sia una svista perché è talmente particolarmente, è talmente strano, devo dire, uso questo termine, che non pensiamo che possa esserci una volontà altro che un errore. Quindi confidiamo sinceramente che il governo lo possa modificare. Ci stupisce che non lo abbiano ancora fatto, perché tutti quelli che abbiamo sentito nella giornata di ieri e che sono autorevoli membri del Parlamento e del Governo, e tutte diciamo, le imprese, perché anche Confindustria su questo si è espressa in maniera molto chiara, molto netta, hanno chiarito qual è il punto, qual è la difficoltà. Credo che si possa dire poco d'altro rispetto alle poche parole che ho detto io per spiegare il fenomeno, che non l'abbiano ancora cambiato mi sembra più strano ancora che dell'introduzione stessa della norma. Ieri infatti Confindustria insieme all'ANCE, alla Finco, a Federprogetti, AGI, AISCAT, molti altri soggetti hanno mandato una lettera al Presidente del Consiglio, a Tremonti, a Matteoli, perché c'è una grandissima preoccupazione anche su tutto ciò che riguarda la politica infrastrutturale dell'esecutivo, e da questo ripartiremo con Buzzetti dopo la pubblicità. Allora, Presidente Buzzetti, il punto di vista dell'ANCE sul combinato disposto tra questa manovra aggiuntiva e il decreto sviluppo per quello che riguardava il riavvio delle opere, qual è? Beh, che innanzitutto aggiungo dal punto di vista delle imprese al quadro che lei diceva inizialmente, le imprese sono in grandissima difficoltà, in drammatica difficoltà. Ricordo che ci sono ritardati pagamenti dalle pubbliche amministrazioni assolutamente inaccettabili e assolutamente cassati dalla Comunità Europea, che chiede 30 e 60 giorni, che stanno diventando un malcostume ormai esteso anche al mondo privato e creerà grandissimi problemi. Dobbiamo dire ancora che è evidente da tutti che è necessario lo sviluppo, da quando Draghi lo ha detto con chiarezza all'ultima sua relazione alla Banca d'Italia, non solo rigore ma anche sviluppo. Abbiamo una situazione del paese che è, come sappiamo tutti, di carenza infrastrutturale impressionante, siamo il fanalino di coda con la metà per esempio delle autostrade di Spagna e Germania. Abbiamo ancora di più le nostre città assolutamente manutenere, risparmio energetico, interventi, quindi l'edilizia può svolgere un ruolo fondamentale, e però il quadro degli interventi tra sviluppo, che pur ha posto alcune cose utili sul piano della semplificazione, però ci sono degli elementi come quello del tetto alla possibilità delle imprese di porre riserve durante i lavori, come sul caro materiali, dove vediamo un innalzamento ad esempio del cemento spaventoso in questi stessi giorni, eppure vengono messi dei tetti di riconoscimento di condizioni eccezionali di aumento delle materie prime, e poi vediamo nella manovra intervenire provvedimenti come questo attuale, come anche tutta la vicenda del patto di stabilità. I comuni dovranno ancora mettere in campo 4 miliardi nell'anno prossimo e ancora nell'anno ancora dopo 9,2, oltre a quei tagli già che hanno subito, quindi paralizzando completamente l'attività dei comuni anche virtuosi. E mi pare che il ministro Bossi avesse detto con chiarezza che questo patto di stabilità andava rivisto. Allora qui veramente c'è una contraddizione fortissima tra la necessità di sviluppo, tra la necessità di fare per lo sviluppo del paese, per la ripresa, per la produzione di PIL, per restare un paese che abbia una prospettiva positiva e non si vada davvero a finire un declino inesorabile, pur nel rispetto dei conti pubblici che tutti assolutamente condividiamo, ripetiamo ogni giorno, e ci mancherebbe. Se allora anche sul denaro, sull'intervento dei privati si va ad abbattere una norma di questo genere disincentivandolo, certamente i segnali sono troppo contraddittori e troppo non in linea con un tentativo di sviluppo. In particolare, aggiungo a quanto diceva Schizzo prima, c'è anche un altro aspetto di questo tetto annuo dell'1% di ammortamenti e detraibilità, che non solo vale per le grandi concessionarie degli investimenti che fanno, ma varrà anche per tutti i programmi di project financing piccoli, perché adesso il decreto sviluppo, che ripeto alcune norme buone le ha messe anche in campo, perché l'equilibrio è la dote fondamentale che deve avere in questo momento tutti, ha messo delle norme di semplificazione importanti in campo urbanistico, ha rotto dei tabù come l'abbattimento e demolizione da 60 anni che stavano lì, ha anche fatto un provvedimento di project finance presentato dal senatore Grillo, che in effetti riattiva e può riattivare con delle norme semplificatorie di incentivazione all'investimento privato, che adesso qui non sto a descrivere nel dettaglio, intervento privato anche nei piccoli project financing che sono relativi sia ai porti, a interventi cittadini di vario genere, di riqualificazione, a interventi per campi sportivi, per sistemazione anche urbanistiche, interventi che potrebbero dare un forte contributo proprio dell'investitore privato. È chiaro che questa norma quindi va a disincentivare totalmente questo pacchetto, diciamo, anche di potenziali interventi ulteriori. Allora qui è necessario un attimo, pur nella difficoltà del momento che lei descriveva, fermarsi, sedersi intorno al tavolo e rivedere l'assetto generale, perché c'è un decreto sviluppo, c'è una manovra economica e questi provvedimenti fra di loro si vanno ad inserire, diciamo, in qualche modo in maniera così, un provvedimento da una parte, un provvedimento dall'altra. Ci vuole un disegno organico per quanto riguarda il tema delle infrastrutture e per quanto riguarda il tema anche dell'intervento sulla città esistente. Voglio aggiungere una cosa, che è evidente che c'è necessità di ottimizzare la spesa pubblica, questo non ci sfugge, non ci sfugge anche che indiscutibilmente, quindi faccio un esempio per il quale la cura non deve uccidere il paziente, quando sul piano delle riserve, le riserve sono ciò che l'impresa, se scopre che c'è un errore dovuto anche a fatti oggettivi, ad esempio non si è fatto un sondaggio su un'opera pubblica, si deve fare perché non si poteva fare in fase di progetto approfondito giustamente, non si è visto, e si scopre poi che bisogna andare con le fondazioni molto più profondamente di prima durante i lavori, oppure in una galleria si scopre una vena d'acqua che non era prevedibile, oppure in un fabbricato ci sono dei problemi nelle fondazioni che non erano individuabili prima di incominciare a intervenire nella sua ristrutturazione. Bene, lì è chiaro che l'impresa deve avere il diritto di esprimere un problema. Nell'attuale norma come uscita va a finire che chi sbaglia non paga, nel senso che dove c'è l'errore non... In realtà l'impresa, che è l'ultimo arrivato, viene caricato dell'impossibilità di porre un problema di riserva. Allora voglio dire che le opere pubbliche in Italia, deve essere chiaro che il prezzo con cui si prendono è il prezzo più basso d'Europa. Poi succede, soprattutto in alcune opere più complesse, che le riserve fanno lievitare i costi e li fanno anche arrivare al raddoppio. E questo del valore, e questo anche perché ci sono possibilità di progetti che sono appunto studiati, come dicevo prima, e quindi c'è un termine di costo eccessivo. Che si voglia su questo intervenire e dire che bisogna ottimizzare i costi tra progettazioni fatte bene e lavori che si sappia all'inizio quanto costano per arrivare fino in fondo, e che sia necessario per questo anche rivedere bene come la filiera delle imprese medio-piccole può intervenire sulle grandi opere, come tutta l'Europa ci dice, questo è indiscutibilmente giusto. D'altro canto però è anche vero che non possiamo intervenire su un ragionamento che non, diciamo, di colpi di mano di questo tipo, diciamo tagliamo via e non ci pensiamo più, tagliamo le riserve, impediamo che ci sia la distribuzione degli ammortamenti su un periodo come la norma di cui discutiamo in particolare oggi, ma che è l'ennesima norma che si abbatte sul settore e ne impedisce la ripresa. Non mi stupisce che molti ascoltatori mandino sms in cui dice continuiamo a non capire. Tento di fare due esempi concreti. Ipotizziamo grandi opere per le quali in corso ci sono già accordi tra privati e pubblici per cooperare insieme al finanziamento e alla realizzazione dell'opera, la Brebemi, Lombardia e così via. Allora, nell'atto della costituzione dell'accordo finanziario il soggetto privato apporta dei capitali e li apporta al regime preesistente che vigeva precedentemente, no? Per gli ammortamenti dei beni, dei propri finanziamenti, dell'investimento. Quando così drasticamente, come avviene con il decreto di oggi, se verrà approvato in Parlamento, e comunque il decreto ha forza vigente dal momento in cui viene emanato, quindi attualmente è già vigente, se dovessimo applicare accordi già realizzati in cui noi abbiamo chiesto, abbiamo implorato i privati di finanziare le opere perché lo Stato non c'ha i soldi, e cambia così radicalmente la disciplina, il privato, poiché naturalmente è coperto da banche, a volte sono banche stesse i privati che intervengono in questi tipi di accordi, vedendosi così mutato drasticamente l'orizzonte dell'ammortamento fiscale e quindi della detraibilità di ciò che ci mette, ciò che garantisce in proprio, ed elevandosi quindi enormemente il proprio rischio di capitale, la parte che deve mettere a riserva avendo un orizzonte di 100 anni e non della durata della realizzazione dell'opera o della durata della concessione, voi capite che salta per aria tutto. Ecco, quindi siccome il totale più o meno degli investimenti in essere attualmente da parte privata sulle concessioni autostradali è nell'ordine dei 35, 38, 40 miliardi di euro, questa norma del governo è come dire: cari signori privati che ci mettete i soldi, adesso vi salta tutto per le mani. Se a questo aggiungete che nel decreto c'è una parte che riguarda l'ANAS, ne abbiamo parlato tante volte, che insieme fa sia il concorrente pubblico ai concessionari privati, cioè realizza e gestisce autostrade per conto dello Stato, e faceva fino a questo decreto anche in teoria l'autorità di controllo dei concessionari privati, in evidente enorme conflitto di interessi, perché o sei concorrente o fai il vigilante sui tuoi concorrenti. Allora questo decreto interviene anche a risolvere, secondo me non bene, la faccenda del conflitto di interesse dell'ANAS, e quindi si crea una specie di autorità, dico una specie perché in realtà è il ministero a quel punto che se la prende, ma se si somma il fatto che a quel punto la lettura del decreto sembra autorizzare al fatto che si pensa che l'ANAS a quel punto si deve concentrare a fare il concorrente pubblico, la somma delle due norme è come dire: diamo una mazzata ai privati, dopo che abbiamo detto per anni mettete i soldi, vi imploriamo, e lo facciamo anche con un bel giro di vite, come è giusto, sul fatto che gli investimenti li dovete realizzare. Ricordate tutte le polemiche ai tempi del governo Prodi con Di Pietro, che intervenne brutalmente impedendo la formazione del più grande player privato di concessionario autostradale con la somma tra Autostrade e Abertis. Ecco, benissimo, giro di vite sulla realizzazione dei vostri investimenti, però intanto privati vi cambiamo l'intero orizzonte per la sostenibilità finanziaria dei vostri piani, e l'ANAS diventa il vero vostro grande concorrente, tanto che alcuni hanno iniziato a dire: ma qua pensano alla ristatalizzazione, e con quali soldi se poi i soldi non ce l'hanno? Dardani, la tua impressione sul quadro complessivo da cui escono queste norme qual è? Guarda, caro Oscar, io ho frequentato le ultime tre assemblee dell'AISCAT, cioè dell'Associazione dei Concessionari Autostradali, e da tutte e tre le assemblee sono uscito fuori con grandi perplessità sul nostro sistema paese. perché 3 anni fa si parlava appunto di quello che hai citato, l'intervento del ministro Di Pietro, che pure ieri il presidente Palenzona ha detto era un ministro col quale almeno si riusciva a parlare. Un intervento pesante sulle concessioni, sugli obblighi dei concessionari. L'anno scorso si parlava di un rinvio di un anno da parte del CIPE nell'approvazione delle convenzioni, che questo significa non dare certezza ai privati sugli investimenti. Oggi si parla di una norma e io vorrei richiamare 3 interrogativi che ha posto Palenzona ieri. Uno, in quale parte del mondo sostanzialmente si possono chiedere agli investitori privati ammortamenti a 100 anni? In quale parte del mondo la retroattività delle norme è una regola? Non ci dimentichiamo ad esempio le conseguenze borsistiche che ha avuto questa norma in 3 o 4 giorni sui bilanci di concessionari quotati in borsa. Magari gli azionisti, i piccoli azionisti che hanno investito in SIAS o in Atlantia potrebbero chiedersi perché gli sono spariti il 30% del loro capitale in una settimana o chiederne conto. E poi l'ultimo interrogativo, in quale parte d'Europa, e questo quando il nostro paese fa sempre questo richiamo all'Europa, giusto, a rigore, sono stati tagliati gli investimenti sulle infrastrutture? In nessuna parte d'Europa, neppure in Spagna e in Portogallo, dove l'investimento alle infrastrutture è intoccabile, ma come dicevi tu, l'investimento sulla spesa corrente è stato toccato, non quello sulla spesa per lo sviluppo. Mi sembra di rivedere drammaticamente l'esercito italiano di 20 anni fa, come tu ricorderai, nel quale si spendeva per le diarie e le furerie il 120% del bilancio e poi si girava coi fucili Garand della Seconda Guerra Mondiale. Questo è lo stato in cui mi sembra versi il paese. Eccoci tornati in studio su questo provvedimento che per tutte le imprese, come avete capito, i concessionari autostradali, ma per tutte le imprese di costruzione, per tutti i privati impegnati nella realizzazione di progetti di cooperazione pubblico-privato per infrastrutturazione del nostro paese, ha un po' l'effetto che avrebbe se molti di voi impegnati in piani pluriennali di sostenibilità del vostro mutuo a casa improvvisamente vi levassero tutta la parte di detrazione delle spese che sostenete nel mutuo rispetto alla vostra dichiarazione dei redditi. Lo Stato dice: improvvisamente ti cambio questa roba, lo sapete perfettamente che quello è un elemento centrale dei conti che vi dovete fare tutti quanti, che ci facciamo tutti quanti per sostenere le nostre spese. E quindi immaginate l'effetto di una cosa di quel genere. Ecco, applicatelo in vastissima scala a tutto ciò che servirebbe fare in più e non in meno, come stiamo facendo da decenni, per tentare di sanare il gap di strade, autostrade, opere portuali, aeroportuali, eccetera, eccetera. Tutto ciò che quindi ci scollega dal grande balzo in avanti dei flussi commerciali del mondo che è in atto in questo periodo, noi che siamo un paese che vive di esportazioni, e fatevi i conti di come una norma di questo tipo, la vogliamo definire svista, a me sembra l'espressione di una totale mancanza di capacità di comprensione elementare di come funziona un'economia, e stavolta non esagero, perché veramente ci sono dei limiti oltre i quali bisogna usare le parole giuste, perché non è che si può stangare solo gli studenti agli esami e poi tollerare cose simili invece quando si tratta di decreti legge e di manovre che, ripeto, dichiarano e perseguono l'obiettivo di una cosa che dovrebbe essere scritta nella, come sul marmo di ogni partito e leader politico italiano per i prossimi anni, cioè l'azzeramento del deficit. È chiaro però che quando poi si scopre alla fine che solo 25 miliardi sono assicurati col decreto dei 40 e poi gli altri 15 miliardi verranno dal taglio delle detrazioni e deduzioni fiscali, non per finanziare la riforma fiscale, non per abbattere le tasse, ma per coprire aumenti di spesa ulteriori, il quadro secondo me giustifica ulteriori toni ancora più duri nel giudicare norme come questa. Sentiamo come la pensano un paio di voi. Giuliano da Padova, prego Giuliano. Sì, buongiorno a tutti. Premetto che innanzitutto sono assolutamente contrario all'applicazione di questa norma, perché effettivamente blocca quello che è qualsiasi desiderio di sviluppo in questo paese, e si creerà a mio avviso un affossamento, un blocco ancora peggiore di quello che stiamo vivendo adesso noi, di quello che stiamo vivendo. Poi io ho 2 domande, non so se sono fuori tema. Io volevo sapere, questo famigerato decreto sviluppo è il DL numero 78 del 31 maggio 2010? E seconda domanda, siete a conoscenza dell'articolo 41 di questo DL che ho citato sopra, cioè della circolazione di sottosistemi giuridici all'interno della Comunità Europea? Mi spiego meglio. è un piano per favorire le imprese straniere ad operare in Italia. Nella fattispecie, un'azienda, per esempio tedesca, potrebbe aprire una succursale a Napoli e scegliere di pagare le tasse con il sistema giuridico della Francia, con il sistema fiscale della Francia. Basta, io ho terminato, se potete un po' rispondermi a questo. No, Giuliano, guarda, le dico al volo, il decreto 78 del 2010 è quello che ha introdotto le misure correttive pluriennali a metà dell'anno scorso. No, è quello in base al quale insorsero regioni e comuni per i tagli che venivano loro proposti, a cui si aggiungono quelli di questo decreto, che è l'equivalente. Il decreto sviluppo è venuto dopo, con misure a sostegno per l'economia. Quanto poi alla seconda sua questione, è quella che si riferisce al recepimento in realtà nella legislazione italiana del principio della mutua riconoscibilità, che è un principio del diritto comunitario. È una sopravvenienza della direttiva Bolkestein, cosiddetta direttiva Bolkestein della liberalizzazione dei servizi. Come si ricorderà, anni fa quella direttiva Bolkestein ha portato all'esplosione di polemiche durissime in tutti i maggiori paesi europei, si temeva l'arrivo dell'idraulico polacco e così via eccetera eccetera. Resta il fatto che è un principio del diritto comunitario su cui i diversi paesi europei sono molto indietro per il recepimento, e credo che sia una cosa più temuta di quanto poi non avvenga nella realtà del nostro ordinamento. Io devo dirle che sono a favore, sa perché? Perché è chiaro che l'effetto può essere: ma come? Io devo accettare che qui venga a farmi concorrenza qualcuno che ha una legislazione fiscale amministrativa meno pesante della mia? Bene, quello è però l'incentivo a che i politici capiscano che la concorrenza si fa così, e che quindi le tasse vanno diminuite, gli ordinamenti amministrativi vanno snelliti, che non si può pretendere a lavoro e impresa di pagare per tutti solo perché lì si sa dove che ci sono i soldi e glieli mettiamo sempre le mani in tasca. Quindi io da questo punto di vista sono molto meno timoroso e anzi favorevole. Giacomo dalla provincia di Lucca, prego Giacomo. Sì, buongiorno, grazie. Io sarò meno tecnico, anche perché non sono dentro queste questioni, però volevo dire due cose. Una che riguarda la presentazione che ha fatto lei per quanto riguarda la manovra, e un punto semplicissimo, cioè la riduzione dei costi della nostra politica sarà rimandata. Esatto. Così, rimandata. Giacomo, che dire, lo sto ripetendo tutti i giorni, non è certo quello che garantisce il saldo per alzare il deficit, ma è l'esempio di una classe politica che abbia finalmente capito, e questa non l'ha capito, che per chiedere a imprese, a lavoro, ai contribuenti, ai pensionati, bisogna innanzitutto mettersi in linea con quello che in tutti gli altri paesi riguarda i costi della politica, enormemente inferiori a quanto in Italia diamo ai politici, enormemente inferiori a quanto i partiti politici ci costano, e rispetto a quello che ci danno legislazioni come quelle di cui ci siamo occupate oggi, grazie a Schintu, grazie a Buzzetti, grazie a Bruno Dardani, avrete capito che la misura personale in questo gattaccio oramai un po' spelacchiato e con gli artigli che non fanno paura a nessuno è colm. Non c'è nessun peggior nemico di chi la pensa come me, meno Stato, più concorrenza, più libera impresa, di chi riduce questi principi a una pantomima eticamente impresentabile come quella che ci offre questo governo. Tutti i giorni peggio, e io non distingo più le responsabilità tra chi ne fa parte, perché evidentemente c'è una misura oltre la quale chi ha un senso di cosa vuol dire liberalismo, mercato, concorrenza, imprese e lavoro nel nostro paese dovrebbe dire: io prendo la porta e me ne vado, voi facciate quello che volete, la cosa non mi riguarda, perché per difendere un seme di questi valori nel futuro dell'Italia, per non renderli impercorribili e ridicolizzati da chiunque vuole tornare al collettivismo e alla patrimoniale, bisognerà che qualcuno prenda la porta, altrimenti dal basso, cari ascoltatori, se la pensate così, iniziate a organizzarvi e a chiedere che vi siano candidati e forze politiche credibili, che credono in queste cose non solo perché ve le promettono, ma perché poi soprattutto le fanno. Ecco, appuntamento questa volta davvero a lunedì, linea Giornale Radio.